nostra corrispondenza, ascoltiamo dalla piazza un'altra piccola intervista, sempre un contributo dalla piazza. Ciao, mi senti? Sento. Allora, dici un pochino, ci parlavano di circa un migliaio di persone in piazza, ti torna come numero? Praticamente adesso ci stiamo dirigendo verso Piazza Pitti, dove c'è il consolato russo, per arrivare fino là sotto, visto che è uno degli elementi fondamentali in gioco in questa guerra contro il Kurdistan. E visto che siamo in diretta, volevo passare uno del collettivo di architettura che sono arrivati in corteo direttamente al presidio e hanno fatto anche un carro armato di razza per fare un po' di scena. Te lo passo? Sì. Pronto, ciao, mi senti? Benvenuto. Sì, mi senti? Ok, benvenuto. Raccontaci pure. Bene, allora innanzitutto buonasera a tutti e a tutti, siamo qui come collettivo architettura ma anche come altre collettive abbiamo deciso di continuare il nostro percorso che abbiamo iniziato nella 3 giorni da Firenze, da qui l'architettura, per cui abbiamo preparato del materiale da lasciare nelle diverse ambasciate in forma di riconoscimento, cioè in forma di denuncia in realtà del silenzio mediatico. In questo momento siamo in Piazza Pitti e non lo so, dovete fare le domande. Sì, no, volevo, niente, volevo, come sta andando poi la... Noi ci siamo già sentiti appunto quando provavamo un po' a raccontare quello che era la vostra iniziativa di 15 giorni fa, appunto d'architettura, l'occupazione temporanea della facoltà, e iniziativa che appunto ci raccontavate essere andata molto bene, molto interessante. E come sta proseguendo insomma il lavoro? Allora, diciamo che riassumendo da 3 giorni, sì, è stato molto positivo perché è confluita molta gente, molti cittadini, anche studenti, eccetera, che era uno dei nostri obiettivi per l'appunto, recuperare, diciamo, l'analisi politica dell'università e parlando di spazi, rendere lo spazio dell'università sia uno spazio pubblico, renderlo realmente pubblico, quindi aperto a iniziative anche esterne di informazione, eccetera. Quindi è stato molto interessante per questo motivo. Comunque c'è stato una parte, un silenzio mediatico molto forte da parte di tutti i giornali. Noi abbiamo chiamato tipo 10-11 giornali anche nazionali per fare una conferenza stampa e ci hanno tutti ignorati, non c'è stato verso, diciamo, di diffondere la notizia mediaticamente. Quindi Strano. questo ci dice anche molto riguardo al lavoro che si è fatto. Certo. Poi comunque un percorso che vogliamo continuare, che continueremo nelle altre università e che cercheremo di coordinare anche con le altre regioni, con le università di Firenze. Quindi diciamo che questo è soltanto l'inizio. Certo, va bene, ti ringrazio. Noi ti sentiamo un po' male perché c'è i rumori del corteo di sottofondo e quindi ti sentiamo un po' disturbato. Ti ringrazio comunque molto del tuo contributo e ci risentiamo la prossima volta. Niente, ti stavo salutando. Grazie mille. È andata.